Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima. Qui siamo con il filo rosso di Alberto, al quale lascio immediatamente la parola. Vi do subito i dati più recenti su quello che sta succedendo nel clima. Capisco che di fronte all'epidemia nella quale siamo immersi, i problemi del clima sembrano lontani, e invece ci dobbiamo abituare a sapere che non solo siamo all'interno dell'epidemia, ma l'origine dell'epidemia è strettamente legata ai meccanismi del clima. Questo l'abbiamo già detto la volta scorsa, l'abbiamo spiegato, però se qualcuno non ce l'ha chiaro possiamo rispondere. Allora, vediamo un po' i dati. È stato questo inverno, che è appena finito, è stato l'inverno più caldo dalla metà dell'Ottocento, cioè dall'inizio delle rilevazioni, diciamo, dei dati climatici generali. In Italia abbiamo avuto un inverno che è di 3 gradi superiore alla media stagionale, quindi tenendo conto della media del paese Italia, siamo stati per tutto l'inverno al di sopra di questa media e una misura abbastanza consistente di 3 gradi. Perché c'è stata durante tutti i mesi invernali una serie costante di correnti d'aria, chiamiamole così, molto mite, molto calda, che proveniva dall'Africa ed è stata quasi ininterrotta per tutti i mesi invernali. Poi, infatti, questo perché è importante questo dato? Perché fino agli anni Ottanta, cioè una quarantina di anni fa, noi, l'Italia è sempre stata intorno alla media, cioè molto più vicino alla sua media, quindi con degli spostamenti non molto rilevanti. E poi c'è stato un cambiamento sia all'inizio degli anni 90 e poi ancora all'inizio del 2000, con effetti devastanti. Allora, noi abbiamo una ritirata dei ghiacciai in una delle vallate delle Alpi dell'ordine di 300 metri. Quindi sono sempre più frequenti le ondate di calore, che ormai possiamo chiamare ondate di maltempo, cioè dobbiamo riuscire a cambiare un po' la percezione di questo caldo, cioè è un tempo cattivo quando c'è caldo così forte, queste ondate di calore. La CO2, il metano e l'ossido di azoto sono aumentati durante tutto questo periodo, fino a poco prima dell'inizio della pandemia. In pratica, dagli anni 70, tornando ai dati generali, negli anni 70 è sparito circa il 70% della calotta polare e le previsioni dicono che l'intera calotta del polare del nord, polo nord, potrebbe sparire entro il 2050, cioè fra una trentina di anni. E questo è stato fatto, questo tipo di indicazione nasce da uno studio piuttosto complesso che non posso assolutamente sintetizzare qui, che però ha elaborato 40 modelli, cioè di varie previsioni cambiando le componenti, i fattori inseriti nel modello, però di fatto lo scioglimento completo era sempre lo stesso sostanzialmente, cioè cambiando anche i fattori, i metodi di analisi, le indicazioni che emergevano erano sempre dello stesso tipo. A settembre dell'anno scorso siamo arrivati a 4,15 milioni di chilometri quadrati, confrontabile con il minimo storico del 2016. Però c'è un problema al quale non si pensa mai, cioè che in pratica sciogliendosi il ghiaccio che sta sulla superficie del mare, attaccato alla banchisa, cioè attaccato alla calotta, sciogliendosi quella parte lì e non riuscendo a ricostruirsi nel periodo invernale, se non in parte, abbiamo un aumento molto consistente della superficie dell'oceano, che dal punto di vista delle radiazioni del Sole è una superficie scura e quindi non viene, assorbe più luce, cioè più calore, e quindi il caldamento generale, cioè il riscaldamento dell'atmosfera, potrebbe crescere, dicono gli scienziati, in modo esponenziale, cioè non graduale, ma in ragione quadrata, nel senso che è in misura molto maggiore di una tendenza tranquilla. Poi c'è un'osservazione che ho trovato in diversi articoli, cioè c'è una coincidenza, non possiamo parlare di schema di causa effetto, però in passato, cioè negli ultimi secoli, non anni ma secoli, ogni volta che si è manifestata un passaggio, cioè una epidemia, una pandemia, quindi sto parlando anche del 1300, eccetera, però in coincidenza c'erano dei cambiamenti climatici molto consistenti. Allora, nessun articolo, come dire, diceva è così, cioè ogni volta c'è il cambiamento climatico c'è stato lo spillover, cioè il passaggio dei virus dagli animali, eccetera. Però, guarda caso, sarà una coincidenza, però ancora non possiamo dire che in fatto climatico le coincidenze non esistono, no? Quindi prendetelo come un'osservazione ancora da dimostrare. Poi, le emissioni. Nel periodo più recente abbiamo un calo del 5% delle emissioni di CO2, metano, eccetera, causate dalle chiusure degli impianti industriali, dalla sparizione del traffico all'interno delle città e via dicendo, e quindi le emissioni sono state sicuramente molto meno. Però che cosa significa? Che la concentrazione, questo lo dobbiamo stare molto attenti, perché non significa che l'effetto che si è verificato negli oceani, cioè riduzione delle emissioni di questi ultimi due mesi e mezzo, significa che nel futuro ci abbiamo meno emissioni. Perché le emissioni che si effettuano in un giorno ci mettono 10 anni a salire nell'atmosfera e a aumentare i dati di riscaldamento globale. Quindi in pratica i due mesi, gli effetti dei due mesi si potranno forse risentire, ma fra 10 anni. Questo è un discorso molto complicato da immaginare, quindi spero dovete fare uno sforzo. Però quello che è importante non è dire che teniamo il tutto chiuso e abbiamo risolto il problema climatico, è in sostanza questo che sto cercando di far cogliere, perché il problema climatico riguarda invece l'ammontare complessivo della CO2 che si è e degli altri 5-6 gas serra che si sono accumulati negli ultimi decenni. Quindi il problema grosso è lì, non è nella quantità di emissioni dell'ultimo mese o dell'ultimo semestre. Allora, questo lo affido alla intelligenza degli ascoltatori. E per farmi capire ulteriormente, questo è anche un dato che ho già dato, noi dovremmo ridurre queste emissioni non del 5%, ma del 6,7% a partire da quest'anno per 10 anni, cioè per raggiungere gli obiettivi indicati dal accordo di Parigi. E noi dovremmo ridurre le emissioni sempre, tutti gli anni, per molti anni, nella misura del 6,7%, cioè molto di più di quello che abbiamo fatto in questi 2 mesi. Ecco, questo forse, questo numero forse è più semplice da capire, e però siamo lontanissimi da questo tipo di eventuali risultati. Poi, passiamo, ho finito i dati complessivi. Ci sono una serie di informazioni che riguardano tutti le città più calde. La città più calda di questo periodo è stata la città di Meyne, Soroa, Niger, il giorno 21 aprile. Il termometro è arrivato a 44 gradi. Era in Africa, cioè in Niger, però è arrivato a 44 gradi. Contemporaneamente, lo stesso giorno è stato misurato, la temperatura più bassa è stata a Vostok, in Antartide, dove era meno 66,4 gradi centigradi. Quindi c'è, come dire, un'accentuazione del fenomeno nei due sensi. Veniamo agli altri fenomeni di cui parliamo di solito, cioè quelli che vengono definiti gli eventi estremi. Sono i cicloni, cioè tutto questo tipo di fenomeni, gli incendi, cioè tutti i fenomeni che negli ultimissimi anni hanno assunto delle dimensioni molto consistenti. Passo adesso agli eventi estremi, cioè tutti quei fenomeni di caldo, cicloni, eccetera, che alluvioni, incendi, che colpiscono in misura molto consistente e che dipendono tutti, in un modo o nell'altro, dal riscaldamento globale. Allora, il primo di questi fenomeni sono dei tornado, dei cicloni sostanzialmente, che hanno colpito molti stati del sud degli Stati Uniti, e con almeno 32 morti. C'è poi stato un ciclone che ha colpito le isole Salomone, quindi dall'altra parte, causando 27 vittime e la discussione di migliaia di casi a Vanuatu, alle Figi e alle isole Tonga, quindi Oceania, le isole dell'Oceania e la parte delle isole Salomone. Un grande incendio si è sviluppato nella regione della centrale nucleare di Chernobyl, che era circondata all'epoca di una foresta. Questa foresta è praticamente scomparsa appunto a seguito di questo incendio, e l'incendio è arrivato a più o meno un chilometro e mezzo dall'impianto di Chernobyl, che è ancora in fase di decontaminazione, eccetera. E quindi sarebbe successo un disastro, nel senso, però l'incendio è stato fermato prima. Poi ci sono stati, c'è un aspetto importante per quanto riguarda l'uragano, che è il Dorian del settembre 2019, che ha colpito le Bahamas, che aveva una intensità 5, cioè massima intensità, con venti superiori ai 350 km orari, che è una cifra estremamente molto impressionante. Però contemporaneamente hanno fatto una ricerca e si sono resi conto che invece la velocità di spostamento, cioè distinguono tra la velocità del vento e la velocità in cui tutto il ciclone si sposta rispetto al territorio sottostante. Questa velocità invece sta calando, che non è una cosa positiva, perché significa il ciclone con quei venti, eccetera, è proprio un vortice sostanzialmente, si può chiamare, e colpisce, cioè, porta con sé molto vento, molta pioggia e distrugge tutte le case di una zona. Cioè sta molto tempo a forte velocità in una zona limitata. E questo è un altro dei fenomeni, quindi per questo viene chiamato fenomeno estremo, nel senso che continua a assumere dimensioni sempre più dannose, sempre più gravi. Bene, un altro incendio ha distrutto 5.300 ettari di vegetazione di bosco nel parco il più grande della Polonia. Cerco di capire la pronuncia perché ci sono quattro consonanti di fila. Biebrza, più o meno. E poi, sempre tra, restando nel campo dei fenomeni estremi, ci sono state numerose alluvioni. 46 persone sono morte nel sud di Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, con 15.000 case distrutte. Ci sono stati allagamenti e frane nell'ovest del Kenya, con molti dispersi, ad Aden, nel sud dello Yemen, sono morte molte persone negli allagamenti, che però la preoccupazione per questo paese è il colera, che sta già imperversando e ci sono guerre in corso nella zona, e in più c'è il colera, quindi insomma è una di quelle situazioni drammatiche di cui si parla troppo poco. Poi l'altro evento che dobbiamo ricordare è la siccità, che è in corso dal 2000 a oggi, cioè ancora in corso, nell'ovest degli Stati Uniti, gli stati dell'ovest, con una riduzione molto consistente dell'acqua dei laghi Powell e Mead. E c'è una cosa interessante, l'articolo che ho visto definiva questa siccità, cioè così lunga e così estesa, come una mega siccità, cioè significa un qualcosa di un po' più strutturale di un periodo stagionale di siccità. Però l'articolo faceva anche notare che negli ultimi 1200 anni sono state registrate solo 4 mega siccità, quindi questa sarebbe la quinta, che significa che, come dire, gli scienziati stanno studiando attentamente quello che succede in tutta questa zona, perché è un fenomeno evidentemente di una portata non locale e sicuramente non stagionale. Oh, l'altra questione di cui abbiamo già parlato la volta scorsa sono le locuste. E il problema è che devo comunicare, no? Devo ricordare che c'è una seconda ondata di locuste che sta colpendo il Kenya e tutto il resto dell'Africa orientale, quindi Somalia e gli altri paesi. Perché coincide? Perché c'è una seconda, come dire, cova, cioè le locuste si stanno riproducendo e stanno approfittando del fatto che questa seconda riproduzione appare nella stagione delle piogge e delle semine. Quindi è a rischio la sicurezza alimentare di questi paesi, nel senso che non riusciranno a fare le semine e quindi l'anno prossimo non avranno i raccolti. Quindi questo discorso delle locuste sta assumendo una dimensione particolarmente consistente e che si moltiplica nel tempo. Infine, un ultimo dato, anzi un paio di dati importanti, sempre per quanto riguarda gli incendi. Ci sono i dati, adesso in circolazione, i dati di quella che è stata definita l'estate nera in Australia, cioè questi oltre 6 mesi di incendi in tutta la zona del Queens, della parte, che però rappresentava il 20% del totale delle foreste dell'Australia. Quindi questo continente che ci immaginiamo selvaggio, pieno di foreste, eccetera, eccetera, per un quinto è stato distrutto. E si parla di 11 milioni di ettari bruciati e 33 morti. Poi quando questo incendio è finito, diciamo da poco, da pochissimo, il terzo, cioè marzo, fine marzo, è perché era iniziata la pioggia. Però queste piogge si sono rivelate delle piogge torrenziali che hanno dato luogo a delle inondazioni. Quindi un territorio già in cui la copertura era scomparsa, sono poi iniziate le inondazioni che hanno ulteriormente dilavato il terreno. Un ultimo dato che ho messo qua, anche se avrebbe una importanza, dovrebbe essere collocato probabilmente nella parte, diciamo, animali, la parte sparizione delle specie. E l'ultimo dato che ho trovato è che riguarda le giraffe, questo animale assolutamente splendido, che però ne esistono più di 100.000, anzi la precisione del dato è 111.000 in diversi paesi, e però questa cifra si è la, diciamo, ridotta, è il risultato di una riduzione di un terzo, quindi erano molte di più prima. E in pratica in questo momento ci sono rimasti almeno 4 elefanti per ogni giraffa. Quindi anche gli elefanti sono in fase di riduzione, come sappiamo c'è il bracconaggio, eccetera. E l'articolo che è molto difficile da sintetizzare, perché in realtà fa l'analisi di tutti i territori nei quali vivono le giraffe, perché questi animali mangiano le erbe alte, cioè le foglie o degli alberi anche spinosi, ma insomma le foglie superiori, e quindi hanno bisogno di molto territorio per potersi alimentare. E invece proprio le zone dove vivevano queste giraffe sono state urbanizzate, creati parchi, sono stati fatti tutta una serie di interventi umani che hanno alimentato il turismo e quindi in qualche modo hanno alzato il livello economico della zona. Ma queste povere bestie non trovano più lo spazio sufficiente. Anzi, in questo momento sta cercando di creare dei corridoi per metterli in contatto, per poterle far spostare da una zona all'altra a seconda delle loro esigenze. Okay, allora facciamo una brevissima pausa musicale per poi tornare di nuovo in voce, anche se appunto ancora non in diretta, con Entropia Massima su Radio Onda Rossa. Allora, adesso invece volevo parlare di alcune, non so se chiamarli cibi fondamentali o materie prime, però insomma sono dati di settore che sono particolarmente in difficoltà e presentano una serie di problematiche di cui bisognerebbe occuparsi. Allora, intanto c'è una previsione fatta dalla FAO, ampiamente documentata, che sottolinea il fatto che entro il 2050 ci sarà un raddoppio del consumo di carne, quindi con tutti i problemi di cui abbiamo già parlato una volta precedente. Allora, quello che si continua a verificare e viene denunciato, il consumo delle carni da allevamenti estensivi incide molto meno sull'ambiente. E questo viene, ci stanno un sacco di materiali, di analisi, cioè in sostanza le carni di allevamenti fatti ai bradi, senza costringere gli animali all'interno di costruzioni, sono con un nutrimento il più naturale possibile, eccetera, eccetera, incidono molto meno sull'inquinamento del terreno, quindi non ci sono prodotti chimici, insomma c'è tutta una serie di fattori positivi. Quindi in sostanza gli allevamenti cosiddetti estensivi devono essere preferiti, cioè bisogna abituarsi a comprare della carne su cui si conosce l'origine e di cui si sa che non sono di tipo intensivo. E anche le emissioni del bestiame vivo, diciamo, nel suo complesso, incidono per circa il 14,5% dell'insieme delle emissioni climalteranti di cui abbiamo parlato prima. Quindi è una percentuale piuttosto consistente. Però all'interno di questa percentuale complessiva, le emissioni che provengono dalle coltivazioni estensive sono molto minori. Ecco, quindi se uno non vuole affrontare il problema della carne in termini, molto drastici, nel senso diventiamo tutti vegani, oppure eliminiamo la carne, cioè, che è una soluzione ovviamente ottimale, ma volendo si può anche incidere meno sull'ambiente mangiando meglio, cioè utilizzando la carne che ha una storia alle spalle diversa da quella degli allevamenti intensivi. Allora, ripeto, non sto esprimendo una preferenza per questo tipo di... sto solo dando il dato in maniera che quando si fanno le decisioni anche a livello familiare si sappia esattamente che cosa si sta facendo. Allora, ci sono ovviamente dei dati che molto pesanti, quindi il discorso è che ogni chilo di carne proveniente da allevamenti intensivi produce 36,4 kg di CO2. 36 kg, cioè 1 a 36. Questo 36 kg di CO2 è l'equivalente di un'automobile che percorre 250 km per un chilo di carne. Non so se questo è il dato da tenere sempre presente per rendersi conto di quanto è rilevante l'incidenza di questo cibo sul totale degli equilibri ambientali. Poi, in Amazzonia, questo cambio completamente in giro, ma ci sono dei collegamenti, si è riaperta la corsa all'oro illegale. Quindi, nelle zone del Pará, dell'Amazonas e Roraima in particolare, dove ci sono i cosiddetti garimpeiros, che i quali che cosa fanno? Per estrarre l'oro usano il mercurio, grandi quantità di mercurio. E questo mercurio, siccome è il risultato di lavaggi, questo mercurio viene abbandonato e penetra nella terra. Quindi c'è un oltre alle distruzioni causate dagli insediamenti, perché ci stanno decine di migliaia di persone che fanno i cercatori d'oro in questo momento, no? E quindi disboscano, creano strade, insomma c'è tutta una serie di interventi negativi, però in più c'è questo dell'utilizzo del mercurio, per cui abbiamo parlato già del Brasile in passato, perché ovviamente con il nuovo presidente è cambiato completamente l'atteggiamento nei confronti dell'Amazzonia, e quindi alcune di queste operazioni di estrazione dell'oro avviene all'interno delle zone che sulla carta appartengono alle riserve che proteggono le differenti popolazioni locali. Mentre invece a questo punto queste protezioni si sono ridotte al minimo e ci sono dei danni molto pesanti sulle popolazioni, oltre ai danni diciamo ambientali in senso stretto. L'altro elemento di cui mi sembrava importante parlare riguarda il problema del petrolio. Questo problema è diventato molto importante negli ultimissimi giorni, perché in connessione alla diffusione del coronavirus, ovviamente la chiusura degli impianti di produzione e il pratico fermo delle automobili hanno fatto sì che il petrolio è diventato improvvisamente sovrabbondante, cioè non c'è un consumo sufficiente di petrolio. E questo sufficiente, scusate, sempre in termini capitalistici, cioè sufficiente per l'equilibrio delle miniere di estrazione del petrolio e del consumo di petrolio da parte di auto, impianti industriali, eccetera. Allora, che cosa è successo? Quindi, a livello internazionale, il prezzo del petrolio si è abbassato drasticamente, mediamente. No, finora si era parlato di $50 al barile, oppure 60, 70, si oscillava tra, quindi anche un livello di consumo internazionale fino a tre mesi fa dell'ordine di questa cifra poteva essere 50 in più o meno, insomma, cioè c'erano andamenti discontinui, quindi però si può parlare di cifre diverse. Però stavamo sempre al di sopra dei 50. Oggi stiamo nella situazione in cui mediamente stiamo sotto il $20 per barile. Quindi un prezzo bassissimo, e quindi tutte le grosse imprese petrolifere sono in grosse difficoltà. E gli stati produttori sono anche loro in grosse difficoltà. Tant'è vero che Russia e Arabia Saudita non sono riusciti tempo fa a mettersi d'accordo per, come dire, calmierare il prezzo del petrolio, e quindi il prezzo del petrolio è andato libero. Poi c'è un altro problema, questo è un po' complicato, devo dire, alcuni elementi sfuggono anche a me, nel senso che mi occupo di questi problemi, però non è facile capirli esatto, con precisione. Cerco di fare una sintesi perché è importante tenerlo presente. Una cosa è parlare dell'abbassamento del prezzo del petrolio sul mercato dal punto di vista dell'utilizzo del petrolio, è quello che ho detto finora. Il problema è che sulla compravendita di petrolio, quindi sulla, non al consumo, cioè non quando il petrolio viene preso dal benzinaio per rifornire di benzina l'auto, ma quando sta sulle estrazioni a bocca di pozzo, cioè dalle miniere, oppure sta sulle petroliere che si stanno spostando dall'Arabia Saudita fino agli Stati Uniti. E ci sono tutte operazioni tipo finanziario, cioè in sostanza ci sono una serie di banche, centri specializzati, eccetera, che compravendono questi quantitativi di petrolio in arrivo o previsti e cercano di speculare sulle variazioni del prezzo sul mercato finanziario. Cioè, in sostanza, tutte queste operazioni finanziarie, nella quasi totalità, non si traducono mai in un acquisto o vendita oppure immagazzinamento di un petrolio, di un po' di petrolio, ma sono operazioni che si svolgono su titoli che fanno riferimento al petrolio, ma non esattamente alla compravendita di petrolio. Cioè c'è sopra al mercato del prodotto del liquido e dei suoi molti utilizzi, c'è tutto un mercato finanziario che specula su questo. Questo fa capire perché a livello del mercato finanziario ci sono tutta una serie di operazioni che vanno in grossa difficoltà perché non possono tradursi in un acquisto reale, perché essendoci scarso consumo, cioè un ridotto, molto ridotto consumo di petrolio, tutte le cisterne, cioè tutti i punti di riserva che esistevano in molti paesi, in particolare negli Stati Uniti, sono pieni, cioè in sostanza il petrolio che arriva, e quindi nessuno che faccia operazioni finanziarie vuole essere obbligato a acquistare realmente petrolio, perché non saprebbe dove metterlo. Non so se è abbastanza chiaro questo collegamento. E allora, che cosa fanno? Vendono i titoli ad un prezzo inferiore, cioè ve lo paghiamo purché voi ve lo tenete, cioè ve lo paghiamo, vi facciamo vincere un po' di più purché il petrolio non ce lo mandate perché non sappiamo dove metterlo. È questo che c'è dietro a questi titoli di giornali in cui si parla del prezzo negativo del petrolio, cioè del petrolio che viene venduto in perdita, cioè che viene venduto molto meno del suo valore zero. Quindi non solo 20 dollari a barile, ma meno 36 dollari, cioè in sostanza pagano per non avere questo petrolio. E contemporaneamente fa capire perché, per esempio, giorni fa le grosse industrie petrolifere americane hanno chiesto al governo americano di operarsi presso l'Arabia Saudita per non far arrivare negli Stati Uniti le petroliere che erano in viaggio dal Golfo Persico agli Stati Uniti, perché non sanno dove metterlo. E se no non si capisce, no? Cioè non si riesce a capire esattamente questa cosa. Allora, ripeto, poi come avvengono le quotazioni e in quale sede avvengono e l'andamento delle contrattazioni giorno per giorno, ripeto, credo che sia un argomento proprio da specialisti. Però siccome molte volte poi questa roba arriva sui giornali, è bene avere almeno un'idea di dove stanno i problemi. Ecco, questo mi sembrava che ci sono gli elementi per svariate osservazioni. Bene, direi di fare un'ulteriore pausa musicale e così poi passeremo all'ultima parte della trasmissione, quello di Alberto, certo. Entropia massima. Allora, qui ci sono invece alcune osservazioni, vorrei fare per quest'ultima parte, alcune osservazioni che riguardano sia il clima a livello internazionale, cosa si sta facendo o non facendo, e sia alcuni problemi che riguardano l'ambiente che non vengono approfonditi a sufficienza in Italia. Quindi sono delle mie considerazioni generali basate su alcune informazioni fondamentali. Allora, la prima di queste è, non so se qualcuno se ne è reso conto, però era prevista la COP26, cioè la conferenza delle parti, cioè l'incontro di tutti i paesi del mondo sulla base dell'accordo di Parigi del 2015, quindi sempre questa trattativa in sede ONU a livello internazionale per decidere una strategia nei confronti del debito e che finora ha avuto pochi risultati. Cioè tutti hanno firmato l'accordo, tutti si sono dichiarati disponibili e poi nei fatti nessuno ha ancora presentato piani concreti di intervento per salvaguardare il pianeta. E in questa situazione si è inserito la pandemia. Quindi a causa della pandemia è stato deciso di rinviare questa COP, cioè questo incontro, che doveva avvenire a novembre, ed era la COP26, che aveva un obiettivo molto ambizioso, tenendo conto che dalla COP25 è uscito molto poco in termini di impegni effettivi reali per i paesi, mentre per la COP26 tutti i paesi si erano impegnati a presentare dei piani concreti di intervento. Ancora volontari, cioè attenzione, sono tutti piani che poi dovrebbero essere rivisti per valutare se nel loro insieme rispettano gli obiettivi dell'accordo di Parigi oppure no, nel senso che se la somma potrebbe non essere adeguata rispetto alla situazione oggettiva del pianeta. Quindi la mia osservazione è che proprio questo incontro è stato deciso di rimandarla, cioè non si farà più alla fine di quest'anno e non è stato data nessuna indicazione di quando si potrà fare, quindi è in sospeso. Questa cosa è molto brutta, cioè è una constatazione che certo dipende dalla pandemia, insomma ci sono tutte le motivazioni possibili, però di fatto significa ritardare per l'ennesima volta il momento della verità, cioè il momento in cui i singoli governi si impegnano in concreto, non come obiettivi generali, impegni proiettati nel futuro, eccetera, ma come interventi concreti. Cioè in sostanza non dire elimino il carbone entro 10 o 20 anni, ma si dovrebbe dire chiudo questo e quell'altro impianto fra 3 mesi. No? Non so, cioè delle cose estremamente nette e chiare. Cioè, magari giocando un po' sui tempi, le eventuali ritardi, eccetera, però parlando di mettendo i piedi per terra e cominciando a dare delle indicazioni operative. Ecco, proprio questo momento è stato ritardato, diciamo per forza maggiore, però il danno ambientale significa che probabilmente abbiamo ritardato di oltre un anno un momento che era estremamente fondamentale. Quindi per l'ennesima volta tutte le denunce che sono state fatte, per esempio dai Fridays for Future, cioè che abbiamo solo 9-8 anni di tempo, già ne abbiamo probabilmente solo 7, nel senso che non riusciremo a fare nulla neanche nel prossimo anno. Allora, questo è quindi un punto che bisognerebbe, come dire, tanto la prima cosa che si potrebbe fare è costringere il governo italiano, i singoli governi impegnati dalla pandemia, a prendere solo delle misure di apertura e di ripresa economica che tengano conto del problema ambientale. Questo se ne è parlato pochissimo, cioè c'è qualche articolo che sottolinea questo aspetto, però in realtà non c'è una pressione né da parte dei movimenti, insomma non c'è ancora una pressione incisiva. No? Il discorso quindi è cosa si potrebbe fare nei prossimi giorni, non fra qualche mese, ma nei prossimi giorni, per costringere il governo a adottare una strategia nei confronti del sistema economico che tenga conto del problema ambientale, cioè che non sia la pura e semplice ripresa, rilancio, recovery, cioè questo tentativo di ricostruire il sistema come era esattamente prima, ma invece cercare di introdurre l'elemento rispetto dell'ambiente in ogni provvedimento. Ecco, quindi questo dovrebbe essere un punto cruciale sul quale concentrare, ad esempio, anche l'attenzione dei movimenti. Quindi qualunque intervento viene preso per aiutare ad uscire dalla crisi causata dalla pandemia dovrebbe avere una dimensione esplicita e concreta di tipo ambientale. Poi si potrebbe discutere, si potrà discutere, spero si debba discutere, sulle quantità, sulle dimensioni, sui tempi, qualunque discussione. Però l'importanza dovrebbe essere, per esempio, che gli incentivi dati alle imprese che riaprono dovrebbero essere dati di preferenza alle imprese che sono rispettose dell'ambiente. È una norma molto facile da introdurre, non c'è bisogno di grandi manovre o di grande precisazione, ma aprirebbe la strada per un impegno internazionale d'Italia più concreto, più significativo e non solo basato su promesse campate in aria. Quindi questo è un punto che mi sembra politicamente assolutamente fondamentale da sottolineare, da far notare. E il secondo problema, nei prossimi 2 o 3 mesi sarà finito il ponte di Genova. Finito nel senso che sarà riaperto al traffico, eccetera. È stato fatto in 18-19 giorni, mesi, con un mese e mezzo di ritardo. Cioè una cosa assolutamente strepitosa, strabiliante dal punto di vista dell'esperienza degli interventi in opere pubbliche in Italia. Cioè si sa benissimo, perché è stato dichiarato anche a livello ufficiale, che sono stati eliminati tutta una serie di lungaggini burocratiche, permesse, autorizzazioni, eccetera. Però vuol dire anche che è possibile fare degli interventi di questa portata senza mandarli alle galante greche, 15 anni, 20 anni, 25, cioè è assolutamente possibile, cioè non sono delle richieste di efficienza astratte, sono delle cose che si potrebbero fare. Poi ci può essere una strada sbagliata, un ponte che non serve, però intanto tutti gli altri si possono fare. Però questo richiederebbe una, rivoluzione burocratica, cioè un cambiamento proprio dell'approccio, del tipo. Dovrebbero essere introdotti dei controlli reali, effettivi, funzionali. Cioè, in sostanza, se ti do l'autorizzazione a fare una cosa, tu poi la devi rispettare. Non che viene concessa, ci si mettono 3 mesi o 4 mesi o 6 mesi di scambio di pezzi di carta e poi nessuno controlla se quell'opera viene iniziata o finita. Quindi, in sostanza, dovrebbe cambiare proprio l'atteggiamento governativo, sia nazionale che regionale, nei confronti della esecuzione di queste opere. Anche questo è un punto. Nel frattempo è caduto un altro ponte. È stato 2 giorni sulle prime pagine dei giornali, perché è venuto giù come un castello di carta, cioè è caduto tutto. È una cosa. Non sono un ingegnere, però le foto erano incredibili, cioè non è crollato solo un pezzo. È caduto come, insomma, si sono staccati tutti i pezzi, è venuto giù tutto questo ponte di Aulla. Allora, però non si parla ancora di, è già successo che un paio di mesi fa, dico, però ancora non si parla di come si fa a rimetterlo in piedi, se si fa. Cioè, ancora, quindi la burocrazia per l'ennesima volta ha già preso possesso del nuovo ponte che si dovrebbe fare. Un altro aspetto importante è Bussi, stiamo parlando di Abruzzi-Pescara, finalmente la Edison è stata condannata a risarcire gli inquinamenti sul fiume Pescara, insomma c'è un grossissimo problema che si trascinava da anni. È la prima volta che c'è, prima volta che c'è una condanna così esplicita e così netta contro l'inquinamento. Si può sperare che questo tipo di condanne si moltiplichino e siano fatte rispettare. Questo è un discorso quindi molto potenziale, no? Però evidentemente c'è anche una logica giuridica che si può applicare, anche se con un forte ritardo, perché sono anni che si parla di questo inquinamento, però si può arrivare anche alla fine a tempi accelerati. Un altro punto importante è a Roma è stato detto dal sindaco che le biciclette e i monopattini sono importanti per il traffico. È stato detto e si è accennato anche a qualcosa che è in discussione a Roma da moltissimo tempo, cioè come si fa a fare le piste ciclabili, proteggere i ciclisti dalle macchine, eccetera, cioè tutto il meccanismo. E sarebbe un impegno prioritario, cioè riuscire a concepire in questo momento l'uscita dalla pandemia attraverso un rifacimento del traffico urbano, cioè aumentando molto il trasporto su bicicletta, il trasporto auto-bici, cioè arrivare con l'auto dalla periferia estrema e poi prendere una bicicletta, un altro meccanismo, un motorino, eccetera, per muoversi in città. Potrebbe essere un'occasione, è una di quelle cose che gli economisti chiamano una opportunità. Cioè, tutti hanno capito il motivo, tutti hanno visto quanto è bella la città senza l'inquinamento dell'aria, potremmo risparmiare oltre 1.000 persone all'anno morte prematura per motivi di inquinamento, sto parlando solo di quelli, e altrettanti, se non di più, per incidenti automobilistici. Allora, è una di quelle occasioni che sono sul tappeto, sono esplicite, sono state riconosciute e si tratterebbe di applicarle, cioè di attuarle, di farle diventare realtà. Mi sembra che ho aperto una serie di campi alla riflessione e auguro buon lavoro a tutti. Bene, grazie Alberto, come al solito con il suo filo rosso tra economia e ambiente. E finisce qui questa trasmissione di questa puntata di Entropia Massima. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 8 alle 9 circa. Un saluto a tutte e a tutti.